Allora prendici tra le mani, come schermi catodici fusi, rottamaci. Dacci una pelle di aria compressa, scava un cantiere, impalcaci. Rivestici di fibre antiossidanti, proteggi i nostri punteggi, calce, polvere, scorie radioattive, toglici dall'imbarazzo della scelta. Rendiamo grazie. Offerta, offerta, offerta, offerta, offerta. Rendiamo grazie. Offerta, offerta, offerta. Un disperato tondo, tondo, come una cavalla nell'arena, che mentre dispera. Che un corpo ad essere macerato e di putrefazioni addotto il fluido e distillato un corpo di sua acqua spinta dell'alto in ascendente corpo, che ciascun corpo che stilla in sé il suo fluido e si precipita alle realtà che è infinito, fuggendo ovunque come un'acqua ardente, mercurialmente fuori il suo termometro. Macera i bordi, distingui l'ombra che sei, che ti circonda. Ora vai incontro a roteare le tue vertigini all'acqua. Intorno al corpo non senti che dolore, orrore del confine, questo centro che vuole aprirsi nella pronunzia ermafrodita. Samuta Gilda, mina di luce, fenicotta di seta, sotto i tre lucci. Collare l'aria, connettersi di voli nel rombo rosa. Colla d'asfalto, stagna, salina, ai fari della sua cova. Uova del fuoco si crepano dei nidi a raffinarsi. Respiro fiamma, l'invisibile draga, scava arie in te. Scaglie dell'alto, muta salve di frecce, suo sacro sperma. Piano, fate piano per favore. Piano, non vi accalcate. Uno alla volta, mi raccomando. Piano, lentamente, in silenzio per favore. Piano, fate piano per favore. Piano, non vi accalcate, mi raccomando. Lentamente, in silenzio per favore. Non spingete, fate piano, senza fretta. Non c'è nessuna fretta.